Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il secondo argomento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre è un po' particolare. Parliamo di sport e di abusi nello sport, a partire da quanto ha detto qualche giorno fa il Papa incontrando i medici dello sport. Il saluto al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. E dunque dal Papa vengono sempre parole di saggezza che a volte propongono delle cose che dovrebbero essere ovvie per tutti, no? Che lo sport è fatto per l'attività fisica, per il benessere complessivo della persona, per il divertimento, per l'educazione, però appunto spesso purtroppo si arriva ad eccessi. Beh, penso che, come hai detto tu, Mirko, molte volte le persone assistono proprio a degli eccessi e, per esempio, ci sono delle competizioni come il ciclismo in questi ultimi anni, già abbastanza abituato con i vari scandali di doping di un tipo rispetto di un altro. Comunque, si è appena concluso pochi giorni fa a Castel Gandolfo il 32esimo congresso mondiale FIMS di medicina dello sport. E a me ha molto colpito proprio una battuta che il Papa ha fatto, dove appunto richiamava questi dottori, lanciava questo monito dove diceva che dietro ogni atleta c'è una persona e quindi ogni persona deve essere chiamata al perfezionamento morale e spirituale prima ancora che alla prestazione fisica. Eh sì, gli eccessi, tu citavi il ciclismo, ma insomma anche alle recenti Olimpiadi abbiamo avuto il caso del nostro marciatore Schwarzer che ha ammesso di essersi dopato, parliamo di atletica, parliamo di tanti altri sport. Purtroppo quando il valore diventa il risultato e la vittoria e non semplicemente la partecipazione, appunto si arriva a questi eccessi che numericamente, dobbiamo dirlo, non sono tantissimi rispetto alle migliaia e migliaia di atleti che fanno attività tutti i giorni, però fanno certamente pensare. Certo, fanno sicuramente pensare. Ricordiamo che a questo congresso hanno partecipato 117 paesi di 5 continenti. E ricordiamo come tra le varie battute che appunto il Papa ha citato in questo congresso è come voluto sottolineare che nello sport ci deve essere la capacità positiva di saper unire le persone e i popoli, quindi l'occasione delle recenti Olimpiadi e le Paralimpiadi di Londra ha questa sicuramente capacità, penso che ciascuno di noi l'abbia percepita. Chiaramente quando poi accadono questi scandali in cui qualche atleta viene coinvolto o beccato, sicuramente lo sport non diventa più d'esempio, ma il sospetto è che comunque dietro a ogni fatto di cronaca ci sia sempre comunque delle motivazioni, non so se individuali o degli interessi, sicuramente magari di qualche sponsor, di qualche lobby o di qualche società, magari che può anche a nostro avviso pensare di voler spingere o forzare un pochino la mano. Certamente, come detto, è un fatto soggettivo, ma i medici dello sport in prima persona dovrebbero essere coloro che dovrebbero vigilare che queste cose non accadano. Poi molte volte leggendo i giornali si ha dei sospetti, come detto, parlando di sospetti, che ci sia sempre dell'altro o che queste cose vanno in senso diametralmente opposto. Oltretutto, Carlo, praticare attività sportiva ha comunque un costo, magari minimo, ma che in alcuni casi, per alcune discipline, può essere anche piuttosto significativo come investimento finanziario. Se poi uno decide ad alti livelli o ad altissimi livelli di doparsi, anche quella è un'ulteriore spesa, un ulteriore spreco. Sì, certo, quello che hai detto è perfettamente inquadrato la situazione, come abbiamo ripetuto anche noi in diverse occasioni in cui magari a volte partecipiamo a degli incontri pubblici, così queste cose comunque le ricordiamo sempre, perché se da un lato ci sono anche dei costi che diventano difficilmente sostenibili in questo periodo di crisi anche per una famiglia, far sì che i ragazzi possano praticare delle attività, e noi pensiamo che per una famiglia che ha due figli si può arrivare a spendere oltre 1000 euro semplicemente per poterlo mandare a calcio o a pallavolo, per far così dire due tipi di sport a caso, perché poi ci sono le iscrizioni, ci sono le visite, c'è il kit, c'è tutto quello che gli va dietro anche come, come costo delle quote eccetera. Dall'altro comunque c'è questo rischio qua che appunto possa andare a incidere ancora di più sulle tasche, però bisogna tener conto che normalmente certe soluzioni a certi livelli noi ci auguriamo che non esistano, e che queste poi diventano fondamentalmente delle strategie che vengono ricercate dal singolo soggetto, che non più spinti dalle società, anche se dopo invece in realtà abbiamo, come detto, sempre il sospetto che dietro a queste cose ci siano sempre degli interessi che magari possono fare in modo che queste società debbano per forza raggiungere degli obiettivi, dei traguardi, e quindi un atleta magari o un medico oppure chi per una società magari più debole rispetto a un sistema che magari non vuole utilizzare certi mezzi, possa in qualche maniera subirne di più l'influenza e magari anche ricorrerci. Per non parlare degli stipendi vergognosamente esagerati di certi atleti. Per non parlare degli stipendi vergognosamente di certi atleti, perché poi scopriamo che anche qua l'interesse e la deformazione che hanno molte famiglie nei confronti dei figli è proprio quello di spingerlo a fare certi sport, perché come detto lo sognano sempre protagonista nei campi di Serie A fondamentalmente, visto che è più difficile pensare che uno vada a fare il pilota di Formula 1, si cerca più uno sviluppo su quello che può essere un campo di Serie A. Oggi assistiamo a degli stipendi che sono incredibili e assistiamo anche a dei paradossi che sono ancora peggio. Pensiamo all'ultimo programma di salva stati che l'Europa sta discutendo questi giorni, per esempio per aiutare la Spagna, dove praticamente le persone si sono riversate in piazza perché ha detto invece di aiutare le banche, che poi pagano centinaia di milioni di euro a società e a contratti di giocatori importanti, dateli alla gente che sta morendo di fame e non ha più la forza e l'energia di arrivare a fine mese. Pensiamo solamente a un giocatore come Messi, che è quotato oltre 100 milioni di euro all'anno, pensiamo a altri giocatori come Cristiano Ronaldo, ma pensiamo a società dove dietro hanno semplicemente le banche che sostengono questi club, e questi club che sostanzialmente beneficiano di forme di finanziamento incredibili, e dopo assistiamo appunto a queste persone che si riversano sulle piazze e che magari lottano per arrivare a fine mese perché non hanno più un lavoro. Paradossi della nostra società. E allora questo ragionamento sullo sport ci ha permesso anche di filosofeggiare un po', speriamo in modo utile, a partire dall'esperienza di ciascuno. Appuntamento con l'Adico la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie Carlo. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.